But if you want money for people with minds that hate. E iniziamo questa trasmissione come ogni martedì dalle 16 alle 17 e non possiamo non iniziare insomma dalle novità intercorse sopra di noi dall'ultima trasmissione a oggi. Velocissimamente intercorse queste novità e già giunte a una loro conclusione che ha risvolti a quanto pare anche sulle politiche scolastiche, anche se come tutti abbiamo compreso risvolti difficilmente identificabili. Stiamo parlando ovviamente del nuovo governo, del primo ministro Renzi, anzi primo ministro incaricato, visto che oggi è dalla Camera dei Deputati per la fiducia, e della nuova insomma, ministra dell'istruzione, della ricerca e dell'università, che insomma se questo governo partirà, come pare, sarà in carica, anzi è già a Trastevere, ha detto. Addirittura, già prima di ricevere la fiducia alla Camera, lei già si è insediata a Trastevere. Sì, non so la carrozza nel frattempo, bene. Ma non importa. La carrozza. Comunque, nel senso, quello che possiamo dire così molto velocemente è che abbiamo capito che l'aria che si respira per quanto riguarda la scuola è sempre la stessa, più o meno. Ci sono qualche novità, cercheremo di individuarle, ma si parla sempre di merito, valutazione, autonomia. Sì, no, è vero che l'aria che si respira per quanto riguarda la scuola è sempre la stessa, il ritornello è sempre lo stesso, la valutazione, l'autonomia, però sinceramente io quest'aria rispetto alla gestione carrozza, così proprio a primo sentore, a una prima sniffata, l'ho trovata francamente anche un po' peggiorata, cioè mi sembra un'aria un po' più di chiuso. D'altra parte, voglio dire, volendo partire proprio dai grandissimi sistemi, il fatto che questo governo abbia scelto di affidare il Ministero dell'Istruzione a Scelta Civica già di per sé qualcosa significa. Non dimentichiamoci che da Scelta Civica e comunque da Monti e dal governo Monti non solo è partita la oramai tristemente famosa proposta di aumentare l'orario degli insegnanti a 24 ore, ma più e più volte, ne abbiamo dato conto anche nel corso della trasmissione, sono partite osservazioni rispetto al fatto che gli insegnanti lavorano solo 18 ore, che non si può mantenere un orario di lavoro così basso e così via dicendo. Quindi diciamo l'orientamento del ministro già prima che si insediasse, in realtà ancora deve insediarsi, poteva in qualche modo essere intuito, ecco. Non c'è dubbio. Comunque partiamo dal discorso che ieri Renzi ha fatto al Senato, visto che di scuola ha parlato, e poi arriviamo a parlare di Stefania Giannini, la nuova ministra. Ieri appunto Renzi ha parlato al Senato perché era il giorno in cui si sarebbe votato poi per la fiducia insomma del governo al Senato, e di scuola ha parlato abbastanza a lungo, non ha detto molto ma ha parlato a lungo, un po' come su tutto. Diciamo appunto, sì, mi hai preceduto, perché stavo proprio per dire che Renzi ha parlato a lungo, ieri ha parlato credo più di 70 minuti parlando a braccio eccetera, però francamente la concretezza e il diciamo al di là di quelli che sono stati gli aspetti di Butad, se vogliamo, o comunque diciamo gli aspetti assolutamente propagandistici, la concretezza di quello che ha detto è stato ravvisato da più parti, non la vede veramente nessuno. Vi risparmiamo la voce di Renzi, che l'avete sentita anche troppo, oh no. E invece leggiamo noi alcuni passi del suo intervento in Senato. Quasi all'inizio appunto dice Renzi che il governo deve mettere al centro il valore della scuola, e questo è un po' il refrain che ripete più volte. Poi quando arriva a parlare proprio di scuola dice: noi pensiamo che non ci sia politica alcuna che non parta dalla centralità della scuola. Mi piacerebbe che chi ha la presunzione di avere la verità in tasca avesse la possibilità di confrontarsi con le insegnanti delle scuole e le famiglie nella loro vita di tutti i giorni, perché l'idea che da questa parte ci sia la casta e dall'altra ci siano i cittadini si è un po' rovesciata. Quindi nella scuola ci sono le insegnanti. Sì, questa è una cosa che leggendolo, insomma scorrendo l'intervento, abbiamo notato subito, e sinceramente è una cosa che ho trovato particolarmente sgradevole. Le insegnanti, poi l'intervento prosegue e chi di noi tutti i giorni ha incontrato cittadini, insegnanti, educatori e mamme, e quindi evidentemente la visione di Renzi si riconduce chiaramente a un mondo della scuola tutto al femminile, dove da una parte ci sono le insegnanti e dall'altra parte, diciamo, per buona educazione dice le famiglie, ma lui vorrebbe dire le mamme, quindi ha un confronto tra mamme e insegnanti. Questo è l'immaginario. Sì, che per chiarire non significa, come dire, dare spazio all'autonomia, all'autodeterminazione delle donne, ma significa riportare in auge un modello tradizionale che sinceramente non è proprio il nostro, ecco. Sì, non è il nostro, e che sinceramente, voglio dire, anche dal punto di vista di chi si propone di portare avanti un programma assolutamente avveniristico che mette al centro la scuola, è una visione francamente proprio povera, al di là delle convinzioni di ciascuno. Comunque, dice, andando sotto, dice, si chiede di restituire valore sociale all'insegnante, e questo non ha bisogno di alcuna riforma, ha detto Renzi, ma di un cambio di forma mentis. Dagli spalti del Movimento 5 Stelle si è sentito l'urlo: ha bisogno di soldi? E Renzi, di fronte a questa richiesta chiara, quantomeno inequivocabile, che ha risposto il premier: non ha bisogno di denaro. Riforme, commissioni di studio, quindi non ha bisogno di denaro la scuola pubblica, gliene sono stati tolti 9 miliardi l'anno, ma non ha bisogno di denaro. Comunque, come al solito, il problema della scuola pubblica, della scuola, è un problema, diciamo, di insegnanti, è un altro punto di vista, però ruota intorno alla personalità dell'insegnante questa impostazione. L'insegnante è poco motivato e rende male, e questo è il senso. C'è bisogno del rispetto che si deve a chi quotidianamente va nelle nostre classi e assume su di sé il compito struggente e devastante. Questi sono gli aggettivi che ha usato Renzi, non so. No, devastante, io trovo che devastante possa esserlo, sullo struggente mi interrompo. No, struggente è un, non so, un tramonto, una bellezza struggente normalmente si usa in questo, però boh. Vabbè, comunque invece no, è il compito dell'insegnante struggente. Qual è il compito dell'insegnante? Essere collaboratore della creazione di una libertà della famiglia e delle agenzie educative. Cioè, una frase che non si sa che voglia dire. No, questa frase, scusami, è brutta, è agghiacciante, però è una cosa che dicono in tanti, è una marchetta, perché l'insegnante è collaboratore della creazione di cosa? Di libertà e famiglia, e francamente mi verrebbero da dire tante cose, ma tanto. Anche che non stanno insieme questi due sostantivi, però questa è un'opinione mia, insomma. E andando avanti, il compito di un insegnante è straordinario, e qui no, mi sento proprio dire no. Il compito dell'insegnante è ordinario, perché ci andiamo tutte le mattine a scuola, perché le scuole si costruiscono giorno dopo giorno, anno dopo anno, eccetera eccetera. Non voglio anch'io spendermi in retorica, ma non è straordinario. No, proprio per non spendersi in retorica, diciamo che insegnare è un lavoro come, e non una missione. Tutti i lavori, non è una missione, non è niente di straordinario. Insegnare è il lavoro ordinario di ciascuno di noi, punto e basta. E forse c'è necessità proprio di rimettere al centro quest'ottica e questa visione, il fatto che un insegnante prima di tutto è un lavoratore. Poi dice: ci avete mai parlato con gli insegnanti, ascoltato quello che dicono oggi? No, e poi non risponde. Cioè, lui evidentemente ci ha parlato, ma non dice cosa gli hanno detto. Non mette al corrente. E poi, qual è la priorità che questo paese ha nei confronti degli insegnanti? Sicuramente lo sa il ministro della pubblica istruzione e università, e quindi se lo sa il ministro, se va a posto, non c'è più niente da dire. E dopo dice una cosa che è veramente molto scorretta proprio politicamente, a mio parere, cioè coinvolgere dal basso in ogni processo di riforma gli operatori della scuola. Ecco, io non credo che un governo, un ministro, una ministra possa coinvolgere dal basso, perché sta in alto. Cioè, deve farsi coinvolgere dal basso il ministro e il governo da iniziative che partono da chi sta sul campo, diciamo. Ma se coinvolge il ministro coinvolge dall'alto. Sì, io sono d'accordo con questa impostazione. Mi permetto comunque di far notare ai nostri ascoltatori che su questo specifico punto la ministra dell'istruzione pubblica e dell'università non sembra essere propriamente d'accordo con Renzi, o meglio, non sembra essere sempre d'accordo con Renzi, perché era uscita proprio ieri su Repubblica un'intervista alla ministra Giannini. Domenica? Domenica, sì, era uscita su Repubblica del 23 febbraio, che è domenica, sì, un'intervista alla alla ministra dell'istruzione, la Giannini, e lei alla domanda due temi che Maria Chiara Carrozza le lascia in eredità: il liceo di 4 anni, e questo è un capitolo veramente annoso, e una grande consultazione del paese, che evidentemente fa riferimento a una chiamata dal basso, appunto, la ministra risponde sì ai licei di 4 anni, e non ci aspettavamo altra risposta, è un modello internazionale e non ci aspettavamo altra risposta, ma invece dice che la consultazione della scuola la lascia scettica, quindi lei non la vede in questo modo, lo sa e non la vede in questo modo, almeno domenica non la vedeva in questo modo. Comunque poi va avanti in una serie di frasi retoriche: bisogna recuperare la fiducia, eccetera eccetera, ci sono fior di economisti che dicono dove la scuola è buona l'economia cresce e va bene, e poi ancora avanti, e poi ci dice il suo programma vero sulla scuola, che è un programma come per tutto per Renzi di pura propaganda. Dice: da Presidente del Consiglio io entrerò nelle scuole, però ho perso il segno, se mi vuoi aiutare. Una volta ottenuta, se così sarà, la fiducia del Senato e della Camera, mercoledì mattina, come faccio tutte le settimane, mi recherò in una scuola, la prima sarà un istituto di Treviso, quindi attenzione in quel di Treviso, perché mercoledì mattina arriva Renzi, perché ha scelto di partire dal nord-est, mentre la settimana prossima andrò in una scuola del sud, e lo farò perché penso che sia fondamentale che il governo non stia soltanto a Roma, e quindi mi recherò nelle scuole come facevo da sindaco, per dare un segnale simbolico, se volete persino banale, per dimostrare che da lì riparte un paese. Quindi diciamo, e qui finisce insomma il ragionamento, la lascio a te quella cosa, e diciamo però che dal punto di vista del messaggio è questo il senso: la politica di Renzi sulla scuola è recarsi personalmente il mercoledì mattina in una scuola del nord e la settimana successiva non avverte in una scuola del sud, e là è chissà se va nel nord-est, se sa che ci sono i più bassi livelli di scolarizzazione d'Italia grazie a quel modello di sviluppo che il centro-sinistra ha tanto sbandierato in questi anni, per cui a 15 anni si va nel capannone accanto a casa di proprietà del babbo o dello zio. Comunque, detto questo, modello di sviluppo che sinceramente, forse ci arriveremo nel corso della puntata, sembra essere un pochino anche quello che ha in mente la neoministra, però sì, anche quelli prima, non vorrei dire, però comunque ci tengo molto a dire la frase successiva del discorso del neo premier: dalla capacità, dice, da dove riparte un paese? Dalla capacità di educare, di tirar via, di tirar fuori, nel senso latino del termine. Eh no, caro Renzi, perché il verbo docio in latino non viene da duco, non è ex duco, hai sbagliato etimologia, e guardaci su dizionari prima di sparare a caso, direi. Non facciamo gli insegnanti a caso, Ho capito, ma questo fa il premier, mica fa un altro discorso. Poi chi gliel'ha detto di tirar fuori etimologia latina? Ma questa cosa gli deve piacere, perché anche simbolo, su simbolo invece l'ha detta giusta, perché ha detto un simbolo, cioè una cosa che tiene insieme. Evidentemente ha un ghostwriter che orecchia un pochino di latino e di greco. Comunque, detto questo, ci dispiace, ma ognuno ha i suoi vizi professionali e noi abbiamo questo. E andando avanti, poi appunto ci dice che il mercoledì va nelle scuole, e poi parte a dire una cosa molto precisa, vediamo se poi la farà, quindi lo ridiciamo anche da questi microfoni, e cioè parla del fatto che si deve intervenire pesantemente sull'edilizia scolastica dal 15 giugno al 15 settembre 2014, investendo miliardi di euro e non milioni, specifica. Tu avevi letto qualcosa? Sì, di avevo preciso? Letto qualcosa che parlava di una stima per interventi base di necessità assoluta sull'edilizia scolastica di 4 miliardi e mezzo, era questa la stima che veniva fatta. E dove trovare questi soldi? Dicendo che sull'edilizia scolastica, per questo piano di intervento, si dovrà ottenere deroghe sulla legge di stabilità. in modo che sindaci, presidenti di provincia possano avere dei fondi da utilizzare sull'edilizia scolastica. E quindi, insomma, questa è una cosa precisa: investire circa 4 miliardi di euro la prossima estate con deroghe sulla legge di stabilità, e vedremo a settembre se questa cosa è stata fatta. Ed è l'ultima cosa che dico su questo, anche in qualche modo vedere come viene fatto il piano degli interventi, e qui abbiamo proprio il personalismo di Renzi a proprio tutti al massimo livello. Nelle scorse puntate, se vi ricordate, abbiamo parlato di un dossier di Legambienti sullo stato dell'edilizia scolastica e sulla necessità dell'istituzione di un'anagrafe dell'edilizia scolastica e di indagini in qualche misura avviate in questo senso. Renzi taglia la testa al toro. Domani stesso scriverò una lettera ai miei colleghi sindaci, oltre 8.000, per chiedere a tutti loro, ai presidenti delle province sopravvissute, di fare il punto della situazione sull'edilizia scolastica, seguendo un bellissimo ragionamento, vabbè, di Renzo Piano. Quindi è una consultazione che fa lui personalmente al telefono, una lettera, dice. Non so se una lettera di carta o una mail, non specifica. Vabbè, vediamo quanto ci mette la sindaca a rispondere. Intanto una breve pausa musicale. Cara, cosa mi succede stasera? Guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre. Inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini questa sera. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare. La luna di grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è in te, quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me. Una parola. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. E torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Vi diamo anche il nostro blog Onda Rossa, scusate, oradibuco.noblogs.org. E parlando appunto dei vertici del MIUR, dobbiamo parlare della nuova ministra. Ne cominceremo a parlare adesso, ma non concluderemo, perché questa donna, insomma, ne dà di materia e non proprio quella che avremmo voluto. Comunque, la ministra, se il governo avrà la fiducia, è Stefania Giannini, è stata rettore dell'Università di Pestranieri di Perugia. Dico rettore al maschile perché ho letto un'intervista in cui le viene chiesto: ma lei preferisce essere chiamata rettore o rettrice? Lei specifica che, essendo lei glottologa, sa quello che si può dire noi in italiano, che rettrice è una parola esistente, che non c'è nessun problema grammaticale, ma lei preferisce essere chiamato rettore perché questo dà più potere e autorevolezza. Dice proprio così nell'intervista. D'altra parte abbiamo appreso da Renzi che le donne fanno le insegnanti e quindi lei fa il rettore, e questo rientra in una visione del mondo. Detto questo, era fino a che non è stata chiamata al MIUR la responsabile per scelta civica di scuola, ricerca e università, scelta civica, insomma, il partito di Monti, e sinceramente quindi tutto ciò è molto coerente con le cose che poi questa donna ha detto in questi 2 o 3 giorni da quando è stata chiamata come ministra, ma anche che aveva detto prima e che forse potremo vedere con più calma. Abbiamo già visto che rispetto a quello che ha detto Renzi non è proprio, neanche rispetto alla chi l'ha preceduta, alcune cose non gli vanno più bene, non vuol più fare sta, forse non lo sa, questa cosa della consultazione di tutti, insomma, gli stati generali della scuola, mi ricordo me l'avevano chiamati. Sì, sì, diciamo, la neoministra in questi 2 giorni, per cui è una prima impressione, non sembra essere molto allineata con chi l'ha preceduta, non è sembrata, almeno a me qualche minuto fa, molto allineata con Renzi, però mi sembra anche non molto allineata con se stessa, perché domenica diceva che lei ha sempre pensato che il ciclo breve per il diploma, quindi il liceo di 4 anni, poteva essere una priorità, può essere una priorità perché corrisponde a uno standard internazionale, mentre invece vedo che oggi ha rilasciato una nuova intervista, o una nuova intervista in particolare al Corriere della Sera. Le domandano il ciclo breve per il diploma, cosa ne pensa? Non sono contraria a continuare la sperimentazione, ma non sono un'entusiasta sostenitrice dell'idea di eliminare un anno dalle scuole superiori, non credo che sia la carta vincente, purtroppo penso che abbiamo 3 cicli di scuola, 2 funzionano bene, uno quello intermedio meno, e va bene, per cui tra domenica e oggi che è martedì su questo ha già cambiato idea, per cui chi lo sa cosa pensa la ministra. Renzi pensa che lei lo abbia chiaro, ma a me pare di no, ecco. Beh, il terzo, insomma, il MIUR è la terza persona che, se succede, che fa il rettore in un'università, perché... E non li prendono se non fanno i rettori, evidentemente non li prendono più a fare i ministri della pubblica istruzione o le ministre. E sì, credo ci rimarrebbe male, ma noi la chiamiamo ministra perché invece noi ci teniamo alla lingua italiana, e anche che non sia sessista, insomma, la lingua italiana. Sì. E quindi comunque niente, lei si è dichiarata più volte secchiona, questa cosa si vede che pensa di essere simpatica a dichiararsi una secchiona, non è simpatica, ma a parte questo poi diciamo che i suoi pallini sembrano gli stessi di chi l'ha preceduta, più o meno, nel senso che ha parlato tantissimo di merito e veramente non se ne può più. E tantissimo di ha parlato appunto di merito, di valutazione, della necessità di valutare gli insegnanti e le insegnanti. Parliamo di insegnanti perché di tutti gli altri che lavorano nella scuola la ministra per il momento non ha proferito parola, forse non sa neanche che esistono. Pensa che si autopuliscono le scuole, che... No, pensa che ci sono le coperture, che è stato esternalizzato completamente il servizio e che quindi la cosa la riguarda ma poco. Ho capito. E poi ha parlato moltissimo di autonomia, di responsabilità, eccetera, eccetera. Credo che dovremo approfondire perché, insomma, su certe cose ci va parecchio a fondo, ma nel senso che, essendo stata la responsabile per scelta civica, ha scritto anche di scuola, e quindi, insomma, sappiamo come la pensa. pensa, ma invece delle cose anche nelle interviste che ha rilasciato in questi giorni. Domenica, fra l'altro, una gran chiacchierona, perché ha rilasciato continuamente interviste da quando l'hanno chiamata. È lo stile Renzi, molto e fatti vedere molto, dopodiché. E per esempio domenica, oltre che da Repubblica, si è fatta intervistare anche dal Messaggero. Il titolo di questa intervista, a firma di Pietro Piovani, era: insegnanti, superare gli scatti di anzianità. Superare nel lessico del Messaggero vuol dire abolire gli scatti di anzianità. Questo è quanto la ministra, insomma, pare aver detto. Cioè, dice, ci sono due parole fondamentali su cui secondo me dobbiamo basare tutta la nostra azione: merito e valutazione. Per i docenti, così come per gli studenti, si devono adottare criteri premiali che consentano agli insegnanti di migliorarsi e di essere premiati per i loro miglioramenti. Questo Pietro Piovani, il giornalista del Messaggero, gli dice: quindi basta con gli automatismi di stipendio. Gli automatismi sono il frutto di un mancato coraggio politico del passato. Ma ovviamente sto parlando in modo generale, prescindendo da eventuali misure che ancora non ho concepito lontanamente. Non la concepite, però ci dice che gli stipendi in base all'anzianità vanno tagliati, e questo è il solito progetto, sostanzialmente, di togliere un diritto acquisito a tutti i lavoratori e le lavatrici della scuola, cioè degli scatti stipendiali, peraltro miseri e bloccati dal 2008 in questo momento, che servono per adeguare lo stipendio al costo della vita. Sì, e che invece vengono fatti passare sistema da quella che è veramente una propaganda come un meccanismo premiale, e si ritorna sempre sulla retorica veramente schifosa del non si possono dare incentivi premiali a pioggia, come se appunto gli scatti di anzianità fossero un premio per il lavoratore e non, come si è detto, un adeguamento al costo della vita. Ricordiamo che già Tremonti nel 2008 ha portato gli scatti d'anzianità nella scuola, prima erano ogni 3 anni, ora ogni 8. Cioè il primo è dopo 8 anni che sei in servizio, e comunque sono stati bloccati l'anno stesso e quindi nessuno li ha più visti. Sì, ricordo sempre che lo stipendio base di un insegnante, che è il mio, quindi parlo con cognizione di causa, ammonta a 1.280 euro mensili. Un insegnante di scuola secondaria superiore, perché alle medie e alla primaria guadagna un po' meno. E andando avanti, in sintesi, su quelle cose che ha detto la ministra in queste 3 interviste, Corriere.it di oggi, Repubblica e Messaggero di domenica. Sì, andando avanti, hai ragione a dire che lei dice delle cose agghiaccianti, punta molto e reiteratamente su quello che è l'autonomia scolastica, il concetto dell'autonomia scolastica, l'attuazione dell'autonomia scolastica. In alcuni punti, in alcuni passaggi si esprime come se l'autonomia scolastica sostanzialmente fosse ancora da realizzare, e però qua e là si intravede effettivamente a che cosa effettivamente pensa a quanto è dato di intuire anche ai problemi del reclutamento degli insegnanti, perché a domanda diretta poi effettivamente risponde, e questa donna effettivamente pensa sostanzialmente all'assunzione diretta da parte dei presidi. Continuo a leggere dall'intervista al Corriere della Sera di stamattina, ma è una posizione che si trova poi ripetuta in documenti che lei ha elaborato come coordinatore di Scelta Civica, e le chiedono appunto dei concorsi, e lei dice che i concorsi sono un meccanismo che ha creato più problemi che soluzioni, e quindi questo merito non va valutato attraverso i concorsi evidentemente. E quindi le chiedono: ma per semplificare, si può immaginare un dirigente scolastico che fa selezioni per capire quali insegnanti vanno bene per la sua scuola facendo colloqui e prendendo curricula? Uno scenario, per chi conosce la scuola, obiettivamente agghiacciante. E lei risponde: certo, ci sono tanti strumenti che si possono sperimentare per dare autonomia alle scuole. Le scuole, come strutture pubbliche, devono dare conto delle scelte che fanno, possono operare delle scelte sulla base di esse valutate e premiate. Sulla base di esse possono essere valutate e premiate. E quindi evidentemente la risposta è sì, questo è lo scenario che lei pensa, e veramente torniamo a scenari che pensavamo di aver dimenticato una volta. volta per tutte, insomma. Quando l'avevamo pensato? L'avevamo pensato perché ce ne eravamo dimenticati, al cambiamento dello statuto giuridico dell'insegnante, al cambiamento perché del contratto. Perché era Profumo che ne parlava, era Monti. E la legge ex Aprea. Sì, io personalmente mi riferivo alla legge che ex viene Aprea. Però evidentemente inserita alla prima stesura della legge. Questa legge Aprea, ex Aprea hanno fatto finta di toglierla e poi ce la rinfilano a pezzettini evidentemente. E quello che noi ci siamo detti e quello che ci siamo anche imposti di ricordare, ma poi evidentemente abbiamo rimosso, e questo era lo scenario sostanzialmente della legge Aprea, neanche ex Aprea sostanzialmente. Comunque, al di là di questo, evidentemente questa signora, che è un esponente di Scelta Civica, lo ricordiamo, ha anche un'altra preoccupazione, e l'altra preoccupazione è chiaramente quella delle scuole paritarie, che lei chiama in una maniera veramente buffa, perché usa un'espressione che non ho mai sentito, la scuola paritetica, che non capisco neanche. E si vede non si ricordava che si dice paritaria. Che lei si è sbagliata, sì, non sì. Ha voluto creare un neologismo ad hoc, va bene. Comunque sia, di fronte a una domanda su Repubblica, questa volta rispetto al valore del ruolo dell'insegnante e al fatto che obiettivamente manchino soldi per valorizzare gli insegnanti, davvero le risponde che i soldi sono necessari per la scuola pubblica e per quella paritetica, che lei non ha intenzione di lasciare indietro. E poi ribadisce a seguire che il modello degli scatti di anzianità va superato e che bisogna valorizzare il merito. Quindi insomma è vero che sono sempre gli stessi ritornelli, però rispetto a quella che era la situazione precedente, parlo della ministra Carrozza, mi sembrano ritornelli portati avanti con particolare coerenza, con particolare determinazione, in uno scenario di operativismo che francamente mi preoccupa. E adesso questo discorso sulla ministra lo chiudiamo qui, anche se abbiamo altro da dire, quindi vi rimandiamo a martedì prossimo, perché adesso invece sentiremo l'RSU di una scuola qui di Roma per uno sciopero che ci sarà tra poco, e per approfondire quindi alcuni percorsi di lotta che appunto inizieranno e insomma di cui adesso parleremo con questo compagno, che appunto è l'RSU dell'Istituto Statale d'Arte di Roma 3. Solo pochi minuti di musica e poi torniamo in voce. Questi sono i Baustelle, Il liberismo ai giorni contati. Cato amore mio, di conseguenza andiamo a cercati. Rivoluzione ben artistica, per questo le avanguardie erano ok, almeno fino alle 66. Ma ormai la fine va da sé, è inevitabile. Anna pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada. Catastrofe, è inevitabile. Vede la fine in metropolitana, nella puttana che le si siede a fianco, nel vizio stanco, nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nessuno non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. We'll be right back. Torniamo in diretta, 16.45, l'ora di buco, dovremmo avere una corrispondenza. Pronto, ci senti? Sì, sono qui, sono Maurizio, dimmi. Ciao Maurizio, buonasera. E Maurizio è RSU in una scuola di Roma, della zona di Cinecittà, e dove è iniziato un percorso di lotta che non è chiuso in quella scuola, ma che diciamo insomma voi siete partiti in maniera decisa verso gli scioperi che dovrebbero insomma che iniziano adesso e che sono convocati per un mese, insomma scioperi ovviamente sì. Bianchi, come si dice. Allora diciamo, buonasera innanzitutto, sono Maurizio del liceo Argan, liceo artistico Argan di Cinecittà. C'è questa situazione di questo sciopero nazionale delle attività aggiuntive dello straordinario indetto da due sigle di sindacati ai quali ci siamo agganciati come lavoratori di questa scuola. Chiaramente quello che ci interessa soprattutto è, come dicevi tu, che questo sciopero non si esaurisca all'interno della nostra scuola, ma che abbia un respiro, insomma, diciamo, perlomeno tanto per cominciare, poi che ne so, l'augurio anche di qualcosa di meglio, però perlomeno a livello territoriale, visto che nel nostro quartiere ci sono tante realtà scolastiche, quindi tanti lavoratori della scuola, e soprattutto poi la nostra attenzione, insomma la nostra voglia di comunicare, di scambiarci informazioni, anche eventualmente voglia di lottare insieme, va anche verso i lavoratori che chiaramente non sono della scuola, perché cioè, secondo noi, insomma, le problematiche legate alla scuola pubblica rispondono del momento particolare dal punto di vista storico, questa pseudo crisi che ci spacciano, insomma, come della quale sembra che poi alla fine siamo dei lavoratori responsabili quasi, no? Ma non lavoratori non della scuola, intendi per esempio le cooperative di pulizie, per capirsi? Anche io sono per esempio un collaboratore scolastico e sono un dipendente dello Stato, ma all'interno della mia scuola nello specifico non ci sono cooperative di servizi, ma per esempio nel quartiere, per esempio domattina parteciperò a un'assemblea domattina dalle 8 alle 10 che c'è in un istituto comprensivo della scuola del quartiere di Cinecittà, dove essendoci anche la materna, perché adesso le hanno accorpate le scuole, no? Quindi c'è la materna, le elementari, le scuole medie primarie, insomma, le scuole medie, quelle che prima erano definite scuole medie, prima, seconda e terza media, e all'interno di molte scuole così, insomma, qualificate, elementari, ci sono chiaramente queste figure che sono i lavoratori delle cooperative, e chiaramente certo che ci interessa anche quello, perché quella anche è una lotta che si sta sviluppando soprattutto a Napoli, visto che hanno occupato, tra l'altro ho avuto notizia che hanno occupato delle scuole, e che anche loro, insomma, anche se poi loro, sai, c'è una situazione un po' particolare lì, perché sono vittime anche di coloro che li hanno poi mandati un po' allo sbaraglio, perché queste cooperative che il Polo li rappresenta o rispondono a interessi poi dei soliti potenti, che hanno i soliti interessi, sai, questa storia qui del io mando te nelle scuole con le tue cooperative perché ci sono degli interessi tra i politici che poi determinano questo stato di cose. Perché... No, questo ne abbiamo parlato anche, insomma, con diretti interessati, cioè proprio con lavoratori e lavoratrici delle cooperative. E quindi, insomma, si diceva appunto Nel nostro caso non è così. Noi chiaramente siamo aperti alla collaborazione con chiunque, anche con i lavoratori di questo tipo, perché la nostra idea è che chiaramente questi lavoratori qui, per esempio, così esaurisco il tema dei lavoratori delle cooperative, che chiaramente ci interessa anche a me, anche se io sono uno pseudo garantito, mi definisco così perché sono un lavoratore di ruolo, comunque sono un birello, un collaboratore scolastico che è di ruolo, ma che comunque è attento anche alla situazione dei precari, perché sono lavoratori come me, quindi io sono solidale, e soprattutto degli ultimi tra i precari, perché non dimentichiamo che quelli delle cooperative non hanno nemmeno la più piccola speranza, perché sono lavoratori quasi a chiamata, sono lavoratori che praticamente non hanno nessun tipo di diritto rispetto alla situazione nostra, che anche i nostri diritti li stanno erodendo, però paradossalmente noi abbiamo le malattie che loro non credo che abbiano, abbiamo una retribuzione diversa, abbiamo un orario di lavoro che si sviluppa in modo diverso. E chiaramente l'idea nostra, o l'idea mia anche di altri lavoratori, sarebbe che anche loro avrebbero diritto, senza inficiare la graduatoria preesistente che c'è di prima fascia, di avere accesso al lavoro come dipendenti, un lavoro a tempo indeterminato praticamente, come tutti noi. Detto questo, sui lavoratori delle cooperative, per quanto riguarda questo sciopero in particolare, ma la situazione in generale nel mondo della scuola, chiaramente la scuola pubblica, come dicevo prima, come moltissime altre come moltissime altre situazioni di lavoro, risponde e sta subendo una logica di tagli agli organici, di attacco totale da parte dello Stato, da parte che in questo caso è il nostro referente, è un po' il nostro imprenditore, diciamo così, no? Che sta tagliando l'organico negli ultimi anni in un modo incredibile, con decisioni scellerate, lasciando praticamente le scuole abbandonate a se stesse. Quei pochi lavoratori, nello specifico nel mio ruolo, nella mia figura professionale, il collaboratore scolastico, ma anche gli altri ALA, cioè gli amministrativi e i tecnici, noi ci troviamo nella situazione nella quale praticamente ci troviamo di fronte a un dilemma, no? Allora, far uscire le criticità scioperando e mandando tutto in malora, o fare come abbiamo fatto fino ad oggi, con grandi sacrifici anche personali e economici, mandando avanti la baracca. Il problema è che mandi avanti la baracca un anno e ti tagliano due unità, per esempio, su 15, e tu la mandi avanti comunque. L'anno dopo dicono loro, no, visto che ce l'hanno fatta in 13, facciamoli diventare 11. Allora, prima, il primo obiettivo di questo sciopero, chiaramente, cioè di questa astensione dal lavoro, è il ripristino inorganico di tutti i colleghi che sono stati tagliati negli ultimi anni. Ah, perché visto che noi facciamo un monte di ore straordinario, incredibile, per coprire i colleghi che sono assenti perché sono stati tagliati, noi chiaramente chiediamo che questi colleghi che i posti di lavoro praticamente siamo assegnati ai precari e noi si smetta di fare straordinari, perché chiaramente ci sembra più giusto così, che ci siamo dei posti di lavoro, piuttosto che noi ci carichiamo di straordinari e peggioriamo anche la qualità della nostra vita. Questo per quanto riguarda la situazione della scuola. Poi va bene, c'è la situazione quella un po' tecnica della prima e seconda posizione, dei tagli che ci sono, perché nel 2009 hanno praticamente riconosciuto la prima e la seconda posizione, che dà degli obblighi a livello di funzioni aggiuntive, però ti dà anche dei piccoli benefici, credo che siano per esempio per la mia figura 70-80 euro al mese nette, 100 all'incirca lorde. E questa è praticamente questa cosa delle funzioni aggiuntive, però poi nel 2009 le hanno date, per esempio l'ultima volta, nel 2011 col governo Monti non c'era la copertura finanziaria, quindi in questo anno hanno deciso di farseli restituire questi soldi, quindi siamo proprio al delirio, no? Quindi significa che su uno stipendio di 1000 euro ci chiedono in restituzione, non so in che modo, a febbraio ci hanno tagliato prima una piccola quota, non so se 100 euro, 200 euro al mese. Poi c'è in generale la situazione della scuola, ma se sono troppo lungo, parlo troppo, dimmelo. No, l'importante insomma è cercare di guaiare, sì. No, anche di dirlo in maniera abbastanza schematica per chi ci ascolta, soprattutto, nel senso che appunto noi siamo addetti ai lavori, ma c'è chi non lo è, ecco. Sì, sì, va bene. Allora, molto schematicamente ti dico che al di là di questo specifico che ci ha permesso o che ci permette di renderci un po' visibili creando del disagio all'interno delle scuole tramite questa astensione dallo straordinario, definiamola così, to cure, no? La cosa che per esempio ci interessa, e interessa anche gli altri lavoratori della mia scuola, più di qualcuno insomma, è prima di tutto di coordinarci almeno a livello territoriale, come dicevo prima, con altri lavoratori, per cercare di farsi trovare pronti in questo momento storico nel quale pare che sembra insomma che i lavoratori siano completamente allo sbando, perché sei ricattati con questa storia della crisi economica, ricattati, minacciati, la gente mette la testa nel guscio come le tartarughe, è difficile poi riuscire poi a far trovare il coraggio alle persone di lottare o di rivendicare i propri diritti. E quindi allora ci interessa questa cosa qui a livello territoriale e di organizzarci. Chiaramente è una cosa importantissima. E questa è una cosa importante. Noi crediamo che gli unici che possono rappresentare i lavoratori sono loro stessi. Quindi invitiamo i lavoratori ad organizzarsi già per conto loro. Se poi vogliono organizzarsi insieme a noi, rifiutando soprattutto la delega, perché spesso gli stessi che dicono di rappresentarsi, parlo dei sindacati confederali per esempio, sono i nostri cugini, perché hanno firmato contratti che capestro e hanno praticamente legittimato, perché chiaramente per prendere le decisioni che hanno preso i precedenti governi spesso li hanno presi col benestare di CGIL e CISL, per dirla chiara, insomma. Quindi questo è il nostro augurio. Noi siamo all'Argan, se qualche lavoratore, poi chiaramente noi anche a livello, come lavoratori ci attiveremo per andare nelle altre scuole, come dicevo prima, per cercare questo contatto diretto e organizzarci insieme agli altri lavoratori della scuola o non. Ma noi approfittiamo di questo spazio che ci avete dato per dire, se qualche lavoratore che è in ascolto in questo momento, che è nella zona della città e anche non, e vuole mettersi in contatto, può chiedere di Maurizio venendo all'Argan, che è la scuola di Piazza Decembre, il liceo artistico statale. Senti, voi avete già fatto un'assemblea RSU, ma avete altri appuntamenti già? Noi abbiamo già fatto un'assemblea RSU interna, nella quale la quasi totalità dei lavoratori ATA, che sono, come dicevo prima, gli ausiliari, i tecnici e gli amministrativi, hanno aderito. Chiaramente adesso noi siamo in questa situazione di lotta. Io adesso personalmente parteciperò domattina a un'altra assemblea dalle 8 alle 10 che si dirà nell'istituto comprensivo elementare, adesso non mi ricordo, il RUA mi pare, sì, credo che sia il RUA. Io che sono facilitato dal fatto che per un male, siccome sono un RSU, posso prendere dei permessi, gli altri lavoratori sono che hanno la possibilità come me di partecipare alle assemblee, alle altre assemblee sempre, perché hanno solo 10 ore l'anno, insomma, di permessi per partecipare alle assemblee sindacali, e spesso molti li hanno già finiti questi a febbraio, queste ore. Quindi io parteciperò, inviterò gli altri lavoratori e proveremo noi nel nostro piccolo a rispondere a questo momento storico nell'unico modo possibile, insomma, non piegandoci. E noi in questo, insomma, siamo contenti di sentire che ripartono dei percorsi di lotta dai territori, perché in questi ultimi mesi purtroppo abbiamo sentito poco, insomma. L'importante è ripartire, partire dal proprio posto di lavoro e coordinarsi con altri. Quindi Maurizio, questi microfoni sono aperti il martedì quando c'è l'ora di buco, ma anche tutti gli altri giorni, insomma, per dare spazio. Vi terremo informati, speriamo di avere delle buone, speriamo che avremo delle buone notizie e che vi potremo dire, che ne so, tra una settimana, che lo sciopero sta andando bene, che si sono aggiunti altri lavoratori, che c'è in programma di fare qualcosa. Noi contiamo a poi le cose che si possono fare le decideranno i lavoratori auto-organizzandosi, che ne so, assemblee nelle piazze, assemblee a Piazza Don Bosco, per esempio. Che ne so, per esempio, tra l'altro, a proposito del Piazza Don Bosco, volevo dire a tutti, perché insomma è una cosa importante, che il 28 febbraio, venerdì, ci sarà l'anniversario della morte di Roberto Scialabba, che è un compagno che hanno assassinato i fascisti nel 1978 lì nella piazza. Indipendentemente dalle sigle o dei compagni che partecipano, a me non interessa, io essendo uno, insomma, che da anni ormai vive qui a Cinecittà e che anche da ragazzo e bazzicava, per dirla come si dice nella nostra città, da queste parti, invito tutti a portare un fiore per questo compagno, anche se sono tanti anni che è morto, insomma, e di portare un fiore. Ti ringraziamo, e anche questi microfoni, insomma, daranno di nuovo questo appuntamento come ogni anno, e quindi, insomma, l'invito è anche nostro per andare a portare un fiore a Roberto Scialabba. Va bene, grazie. Ok, vi abbraccio e vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato. Alla prossima. Ciao. Ciao. Nella sua borsa di Dio. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato. E non è Marx ed Engels, è l'estinzione. È un ragazzino in agonia. Vede la fine. Sono le 16:58, questa è Radio Onda Rossa, all'ora di buco, vi stiamo per salutare, ma vi ricordiamo che oggi alle 17, perché le lotte devono coordinarsi, e quindi insomma, qui ci sono spazi radiofonici tematici, ma questo non significa che nello spazio della scuola si parli solo di scuola, anche perché i diritti devono essere interi per tutti e tutte. Oggi i movimenti di lotta per la casa hanno indetto un'assemblea, la lotta per la casa non si arresta, questa assemblea si terrà alla piramide Cestia a Ostiense, perché c'è stata questa mattina alle 12 una clamorosa iniziativa dei movimenti per il diritto all'abitare, mentre alcuni attivisti provvedevano a issarsi sulle impalcature erette intorno alla piramide, centinaia di persone si sono strette in presidio permanente, e questo presidio sta durando anche ora. Il senso dell'operazione è chiaro: comunicare la solidarietà dei movimenti ai 17 militanti che lo scorso 13 febbraio sono stati colpiti da severe misure restrittive, e sostenere la lotta con la lotta lo sciopero della fame che ormai da 6 giorni i due compagni Luca e Paolo, di questi 7 agli arresti, hanno intrapreso. E ovviamente la manifestazione di oggi, l'assemblea di oggi, si collega al grande corteo che è previsto per giovedì prossimo, per il 27, proprio a partire da Piramide, e proprio per imporre alle istituzioni il rispetto degli impegni presi con la recente delibera dedicata all'emergenza abitativa, che però dopo le iniziative giudiziarie sembra essersi arenata. Questo appunto da una parte è per ribadire che il 31 ottobre 2013 c'eravamo tutti, i diritti si conquistano a spinta, liberi tutti, e dall'altra è per iniziare e per continuare questo percorso che poi ci porterà nuovamente in piazza giovedì prossimo. Con questo sono proprio le 17, l'ora di buco vi saluta, vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 16 sugli 87.9, lascia i microfoni al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche con una canzone molto bella presa appunto da una delle canzoni del martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, che è Sisterhood is Blooming. Ciao a tutte e tutti, a martedì prossimo.